Allora, disturbiamo leggermente Emily Lenz. Siamo al 23 di febbraio, sono le 18.43, siamo anche quasi in orario. Questa è la terza puntata di Attualizzare l'antifascismo. Abbiamo deciso nella nostra radio, Radio ZM, di attualizzare il termine antifascismo seguendo 8 filoni. Questa è la terza puntata. Abbiamo già analizzato la repressione tecnologica, l'ecologia come antifascismo e oggi parliamo di anticapitalismo. Oggi parleremo di Reddit, di Redditors, di giochi in borsa, di posizioni scoperte, di governo Draghi, di anticapitalismo. Ci saranno abbiamo la fortuna di avere due partecipazioni molto importanti, anzi quasi tre, perché le prime due sono Andrea Fumagalli, professore di macroeconomia all'Università di Pavia e all'Università di Cocca. Alex Foti, che dovrebbe essere presente in studio, e lo presenterei come turbo intellettuale contemporaneo. Sembra che sia l'unica definizione che gli può calzare a pennello. Poi abbiamo un compagno della Madonna che ci ha dedicato, che però resterà anonimo, ma forse avrà una trasmissione su Radio ZM, che ci ha mandato degli audio in cui parla di tutti un po' di questi temi. Ci terremo in sottofondo Emily Lenz ancora un po', perché è quel paranoico ossessivo che un po' ci piace per trattare di questi temi. Io spero di non dimenticarmi più di accendere il microfono, sennò diventa grave. Ricordiamo a tutti e tutte che potete interagire con la radio tramite la chat di Telegram, e si trova come radio-zam chat, dovrebbe essere. Adesso ricontrollerò per l'ennesima volta perché da un po' che non lo dico mi sono dimenticato. Potete anche interloquire con noi tramite la pagina Facebook e il canale di Telegram. No, non è vero, il canale di Telegram non può rispondere, giusto Roberto? Non lo so. Non lo sa, non sa niente, va bene. Quindi abbiamo una chat di Telegram che dovrebbe essere radio-zm-chat. Ecco, quello era l'indirizzo corretto a cui potete scriverci, e tra poco partiamo con la prima chiamata. Abbassiamo un po' di colpo, chiedo scusa, ho sbagliato il microfono. Abbassiamo un po' di colpo perché siamo già in diretta, esatto, con la telefonata col professor Fumagalli. Si dovrebbe sentire qualcosa. Sono io col telefono basso. Pronto, buonasera professore. Ciao, ciao Elia, dimmi. No, non Elia, Guglielmo. Ciao, Guglielmo. Chiedo scusa. Per non essere lì, Allora, buonasera professore, è già in diretta, per quello introduco brevemente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. È Andrea Fumagalli, professore di macroeconomia all'Università di Pavia, credo ancora, forse ancora Bicocca. Pavia. Solo Pavia in questo momento. Nota che non serve a niente a nessuno, ma io sono molto curioso di poterlo dire, anche il mio professore di macroeconomia al corso di economia e commercio in Bicocca. Ah, sì, mi ricordo. Mi ero ritirato al primo esame, ma poi l'ho ridato, 25, mi sono portato a casa. Molto bene. Anche un risultato quasi decente. Va bene, professore. Allora, tra l'altro, io lo dico sempre perché in realtà sono un po' una persona sgradevole, è anche il suo compleanno, per cui tanti auguri, esatto, professore. Quanti ne fa? Esatto. Quanti ne fa? 52, 53 al massimo? No, un po' di più. Vabbè, va bene così. Allora ne faremo 52. Aggiungi pure una decina. Va bene così. Va bene, allora, passati convenevoli, io volevo chiederle un po', soprattutto riguardo alla questione di cui ha scritto anche su Effimera con un suo collega, per quanto riguarda tutta la bolla di speculazione che c'è stata guidata dai Redditors sul titolo di GameStop, che ha generato tutto un certo tipo di terremoto all'interno di Wall Street e dei vari commentatori della vita finanziaria. Se partiamo da qui, sì, poi andiamo avanti. Guarda, è stata una cosa molto interessante da questo punto di vista, perché ha messo in evidenza, magari un pubblico molto più largo che di solito di queste cose non si interessa, il fatto che sui mercati finanziari si opera un certo modo di procedere, che è quello legato alla creazione di alcune convenzioni finanziarie, per cui ci sono una serie di speculatori, soprattutto i fondi hedge fund, i fondi di investimento, che puntano sul rialzo, sul ribasso di alcuni titoli, fanno convergere una massa di traders, di operatori finanziari in questa iniziativa, e siccome loro di solito sono i primi che partono, sono anche quelli che maggiormente riescono a guadagnare. Il caso di GameStop è abbastanza paradigmatico, perché a settembre questa catena di negozi di videogiochi, che è abbastanza diffusa negli Stati Uniti ma anche in Europa, anche a Milano ci sono dei punti vendita, ha avuto una situazione di difficoltà economica dovuta appunto all'emergenza sanitaria. A settembre avevano annunciato la chiusura di più di 200 punti vendita negli Stati Uniti, lo spostamento del commercio si sta sempre portando online rispetto ai negozi tradizionali, ai negozi di prossimità, come noto, e quindi alcuni hedge fund avevano scommesso sulla caduta del titolo di questa società, che è quotata in borsa, e quindi hanno iniziato, attingendo il loro portafoglio, la vendita delle azioni che possedevano, in maniera da creare una corsa al ribasso. Il gioco è questo: io vendo un'azione che adesso vale $10, per ipotesi. All'epoca le quotazioni di GameStop erano sui $14-15, quindi non molto distante da questa cifra. Okay. Il titolo perde valore, perché c'è un'abbondanza di vendite rispetto alla domanda. Quando il titolo scende a un certo livello, mettiamo $7-8, questi stessi hedge fund iniziano poco a poco a ricomprarle, in maniera che ricomprano a un valore che è il 30-40% inferiore a quello iniziale, per poi innescare un meccanismo di rialzo. Questa operazione è stata contrastata dal fatto che, mentre avveniva questa corsa, questa speculazione al ribasso del titolo, alcune piattaforme di micro trading online, che sono molto diffuse soprattutto negli Stati Uniti, pensiamo a Rabbit piuttosto che ad altre piattaforme come Robinhood, il nome non deve ingannare da questo esatto, punto di vista, no? E anche perché questa rete di negozi, diciamo una serie di fans e di supporter, si è creata quasi una certa una comunità, possiamo dire. Ebbene, queste piattaforme sono riuscite a coinvolgere una serie di piccoli risparmiatori che hanno invece iniziato ad acquistare questo titolo. E mentre i grandi fondi speculativi scommettevano al ribasso, queste piattaforme di micro trading hanno iniziato a comprare il titolo, e hanno quindi creato una compensazione, un ostacolo a questa speculazione al ribasso, a questa convenzione al ribasso sul titolo GameStop, col fatto che il titolo GameStop è salito alle stelle, è salito fino a crescere del 400-450%, è arrivato a $170 l'azione. Questo ha creato una sorta di panico, perché ha messo in evidenza che se c'è una capacità di organizzazione a livello di piccoli risparmiatori, di piccoli traders, è possibile contrastare il potere delle grandi oligarchie finanziarie. È chiaro che questo è stato un po' uno specchietto per avere l'odore, perché poi in realtà è soltanto nella Bibbia o per solo eccezioni in cui Davide riesce a sconfiggere Golia, perché poi Golia si riorganizza e ha messo in moto tutta una serie di operazioni per porre rimedio. Fatto sta che comunque, secondo i dati di alcune grandi multinazionali come Citicorp e altri, si è stimato una perdita di quasi 40 miliardi di dollari su questa operazione per gli hedge fund che controllano migliaia e migliaia di miliardi nei loro portafogli. Quindi qualcuno ha perso, e quel qualcuno sono gli hedge fund che proprio i soldi hanno dovuto tirarli fuori o li hanno semplicemente persi. Certo, perché loro avevano venduto delle azioni che pensavano che calassero per poterle ricomprare a un prezzo ridotto del 34%, e si sono ritrovate in situazioni in cui invece il valore dell'azione era risalito. E quindi sono rimasti un po' fregati da questo punto di vista. Questo ha evidenziato il fatto che ormai anche nei mercati finanziari le piattaforme, non soltanto nell'e-commerce, non soltanto nei social media, non soltanto per il trasporto di cibo, se facciamo riferimento alle piattaforme più note che noi conosciamo, sì, ormai anche nei mercati finanziari hanno acquisito una certa importanza, e adesso si sta scatenando la lotta per il controllo di queste piattaforme. E da questo punto di vista è chiaro che i Golia di turno hanno, diciamo, un potere decisamente superiore, anche perché hanno una capacità di resilienza, di capacità di durata nel tempo, disponendo di grandi portafogli finanziari sicuramente superiori a quelli che possono avere i piccoli traders. Quindi c'è, cioè, tutto quanto un'invenzione tra virgolette nostra, che ci vogliamo leggere una parte di, come si dice, ma di tutti hanno dato delle interpretazioni che non entro nel merito perché non ho le conoscenze, le competenze necessarie, che fosse stata anche una sorta di populismo finanziario dal basso legato anche alla situazione americana, al trumpismo eccetera, però insomma i rapporti di forza all'interno del mercato finanziario sono ben chiari. L'idea di poter intervenire nel sistema utilizzando le leve della speculazione per creare un contropotere speculativo, insomma, personalmente ho dei dubbi, perché le forze sono assolutamente diseguali da questo punto di vista, e anche la capacità di resistenza nel tempo è molto più limitata, perché dipende dai valori di scala che hanno questi hedge fund. Questi hedge fund possono andare avanti anche a perdere parecchi miliardi senza che questo metta in crisi la loro operatività, mentre un piccolo risparmiatore, se inizia a perdere, dopo un po' non ha più benzina da questo punto di vista, certo. Quindi deve cedere, trovare qualche soluzione alternativa da questo punto di vista. No, perché devo ammettere che leggendo, io ho avuto la fortuna di fare Reddit qualche mese fa, e quindi quando è successo tutto il pandemonio ho letto direttamente dalla pagina di Wall Street Bet cosa stava succedendo, e devo ammettere che alcuni commenti erano quasi esaltanti. A parte il fatto che c'è stata un po' questa idea, perché chiamarsi compagni, arriviamo alla luna, gli distruggeremo tutti, facciamogli male, sì. Cioè cosa che sembrava veramente di lì a poco le barricate a Wall Street. Esatto, si era parlato di un nuovo tipo di Occupy Wall Street, non come quella che c'è stata con Zuccotti Park, diciamo, ma dall'interno. Ecco. Adesso questo è stato un vulnus che si è creato sicuramente, è stato un campanello d'allarme per le grandi multinazionali della finanza, questo qui, tant'è vero che adesso stanno cercando di recuperare per impossessarsi di queste piattaforme. È un po' come adesso mutatis mutandis, senza fare troppi paragoni troppo azzardati, un po' come quando si è sviluppato tutto il discorso del software, dello sviluppo della rivoluzione digitale negli anni 80, tutta la diatriba tra open source e software proprietario. C'era stato anche tutto un periodo in cui i sistemi operativi tipo Linux o gli hacker o la cyber culture è in grado di sviluppare una forma di uso diverso della tecnologia digitale. Però poi sappiamo che questo ha finito per creare e favorire lo sviluppo della Silicon Valley, poi alla fine il più forte purtroppo nella realtà, al di là delle favole, è quello che vince. E quando c'è, cioè, per più forte si intende chi ha per suoi meriti o perché li ha rubati, mettiamola così, perché è più forte perché è più grosso. Sì, cioè, esattamente. È la vecchia storia del leone nella savana. No, cioè, non c'è la distribuzione del cibo. Chiaro, ma che intendevo dire, perché in qualche maniera ha accumulato capitale rubandoli con le proprie attività, tra virgolette, legali, col mercato concreto, perché io leggevo per esempio un commento sempre riguardo a questa storia di Reddit, tanto su Corriere della Sera. Attenzione, c'è una chiamata, ok. No, è un commento che era sul Corriere della Sera, che affermava una roba del tipo che comunque questa azione è pericolosa perché è una gang che si è organizzata, fa della finanza disordinata e distrugge valore. Certo. Poi va a leggere un altro commento e si nota che gli stessi hedge fund qualche anno fa avevano fatto crollare crollare il titolo di 35 punti percentuali, ma nessuno aveva detto niente, quasi business as usual, cioè è così, allora, che si fa, no? È normale che degli hedge fund facciano un crollo, che poi significa che questa allora azienda... Questi hedge fund, alcuni capitani della finanza 10-15 anni fa, quando si è sviluppato tutto il discorso dei derivati eccetera, sono stati abbastanza corsari da questo punto di vista. D'altra parte, e questa è la capacità del capitalismo, che tutte le persone che si muovono in un'ottica di innovazione distruttrice rispetto allo status quo, poi a loro volta diventano portatori di un nuovo equilibrio su basi diverse. Questo l'abbiamo visto perfettamente per quanto riguarda alcuni personaggi. Se pensiamo a Steve Jobs, sì, sempre adesso, senza, no? Nasce come un esponente della controcultura di San Francisco negli anni 70, così come le prime sperimentazioni informatiche nascono dal basso e poi ovviamente si strutturano e diventano forme impresa organizzata, addirittura fino a spodestano, diciamo, gli esponenti del capitalismo più tradizionale, no? Questa è la storia anche di Bezos, di Musk, eccetera, per diventare loro stessi i primi capitalisti. Insomma, che tristezza. Comunque... No, non è una tristezza, è una cosa normale. Questo vuol dire che comunque c'è sempre possibilità, c'è sempre vita su Marte da questo punto di vista, perché è chiaro che questo mentre il capitalismo può essere pervasivo, uno può pensare non c'è alternativa, come si dice spesso e volentieri, no? Però in realtà c'è sempre un'alternativa. Poi la capacità di organizzazione, di trovare spunti, modalità, eccetera, quello sta anche nelle dinamiche della storia, se no non saremmo ancora all'età della pietra, se queste possibilità non ci sarebbe. Ma quindi c'è la ipotizza che in un futuro E credo che questa storia qui abbia dato delle lezioni su cui riflettere. Ha dato delle lezioni al grande capitale speculativo, che adesso si starà più organizzando, per stare molto più attento, che determinate nuove modalità di fare scambio di titoli finanziari attraverso le piattaforme di trading saranno più monitorate, però d'altra parte anche messo in luce la possibilità che si possono creare delle alternative, delle forme di reazione. Come al solito la dialettica è quella che muove la storia, non è detto che poi le cose devono sempre andare a vantaggio di uno o vantaggio dell'altro, sicuramente ci sono degli spostamenti in avanti che potrebbero preludere a delle possibilità. Anche tutto il discorso delle criptomonete, per esempio, ricordiamoci tutta la parabola del Bitcoin. Il Bitcoin nasce come espressione libertaria, in un certo modo, di poter sviluppare e creare una moneta che non sia sotto il controllo degli stati o delle grandi banche. E adesso il Bitcoin è diventato uno degli asset più speculativi in funzione della speculazione finanziaria che lui stesso voleva combattere. Ma questo non significa che il Bitcoin abbia aperto una strada e abbia aperto la possibilità, ad esempio, che attraverso le criptomonete si possano sviluppare circuiti monetari alternativi che sfuggano al controllo dei potentati finanziari. Spazio c'è, è stato dimostrato che c'è. Sono occasioni che bisogna saper cogliere e organizzarsi per poterle cogliere. Va bene, allora noi abbiamo iniziato questo ciclo di puntate per parlare appunto di dare nuovi significati all'antifascismo in occasione dell'arrivo dell'anniversario dell'omicidio di Dax. Abbiamo parlato di questa situazione perché, vabbè, in realtà era una delle cose è accaduta, diciamo, nel momento in cui stavamo pensando a queste puntate, per cui abbiamo avuto voglia di parlarne e di ipotizzare come questa potesse essere in qualche maniera, intendo il caso di GameStop e la controspeculazione organizzata su Reddit, una forma magari di qualche tipo di anticapitalismo. In realtà, cioè, vabbè, ovviamente, come appunto ha spiegato anche lei, è tutta una cosa che si muove all'interno del gioco, quindi di rivoluzionario, di contrappositivo, ha più il sapore della vendetta da dentro piuttosto che il cercare di cancellare quel modo di intendere il capitale. A questo punto la domanda è: in questo momento dopo il Covid, con quando sta per arrivare il Recovery Fund dall'Unione Europea. Cosa può essere l'anticapitalismo e in che maniera ci si può muovere per creare una diversa situazione economica o combattere, superando l'organizzazione economica, questo sistema che appunto con la crisi del Covid dovrebbe averci insegnato che non può funzionare, perché porta ad ammalarci, a non avere gli ospedali che funzionano, perché abbiamo preferito investire in borsa, tenerci i nostri soldi, non avere la spesa pubblica, non avere il welfare, eccetera. Ma dunque, allora, un primo punto credo che sia interessante il fatto che questa vicenda dell'emergenza sanitaria abbia messo in luce tutta una serie di carenze, soprattutto nelle regioni più ricche, faccio riferimento alla Lombardia, che veniva considerata un'eccellenza nel mondo sanitario, eccetera, in realtà ha svelato che era in nudo, nel senso che poi si è scoperto che tutta questa efficienza e questa eccellenza lombarda era molto contingentata in piccoli luoghi per una determinata fascia di utenti, che sono ovviamente quelli ad alto reddito, mentre invece ha completamente spogliato la regione di qualsiasi politica di prevenzione sanitaria su base territoriali, anzi ha evidenziato che il processo di privatizzazione di joint venture con il capitale privato, dal punto di vista della qualità sanitaria e della possibilità di rispondere a un bisogno universale come quello che dovrebbe essere il diritto alla sanità, è assolutamente all'antipodi, esattamente l'opposto. Questo avrebbe potuto creare, diciamo, una maggiore coscienza sulla necessità di ripresa di una tematica di un welfare pubblico, soprattutto per quanto riguarda due settori che sono quelli della sanità e dell'istruzione. E all'inizio c'era stato un po', durante la prima ondata, un po' questo sentiment, questa percezione di questo. Però poi abbiamo visto che il perdurare di una situazione di controllo e di governance sociale legato all'emergenza sanitaria, eccetera, ha messo in moto un meccanismo che io chiamo di controllo sociale misto ad autocontrollo, che ha fatto leva sul concetto di responsabilizzazione individuale. Cioè, ormai è passato un tempo, la repressione passava attraverso il bastone, e questo era negli anni 70, negli anni 60. Poi la repressione è passata attraverso il controllo degli immaginari, il controllo sociale e le telecamere nelle strade. Adesso il controllo passa attraverso la responsabilizzazione individuale, che tu stesso ti devi autocontrollare, e se non ti autocontrolli sei responsabile di quello che succede. Se tu non fai bene la raccolta differenziata sei responsabile dell'inquinamento, se non trovi lavoro è perché non ti dai abbastanza da fare, sei responsabile di questa situazione, se ti comporti in un determinato modo sei responsabile della situazione sanitaria e del contagio del virus. E sono diversi passaggi questi che fanno sì, se parliamo di antifascismo, che fanno vedere come il concetto di fascismo, cioè il controllo sulla popolazione, no, si modifica nelle sue forme a seconda delle contingenze. Oggi ci troviamo in una situazione in cui c'è il coprifuoco, le mobilitazioni sociali sono praticamente morte. Purtroppo. Gli stessi compagni sono un po' succubi rispetto a questa situazione qui, perché i primi a essere responsabili sono quelli di sinistra. Certo. O pseudo-sinistra. No? Ci si prova. Paradossalmente si è creata questa cosa qui, che quelli che maggiormente sono più critici sulle limitazioni alla libertà individuale sono quelli di destra, che è un paradosso della storia. No? Questo è esattamente un risultato per cui io ritengo personalmente che questo sia una forma di, forse chiamarlo neofascismo eccessivo, perché il fascismo è un fenomeno storico, riprenderlo sempre secondo me non è neanche tanto corretto, ma sono due forme di controllo sociale, soprattutto di controllo individuale, che non passa più attraverso la società, ma attraverso l'introiezione nell'individuo di forme di autocontrollo, quasi un imprinting, diciamo, da questo punto di vista, che consente appunto la possibilità che poi a livello di gestione, di governance collettiva nazionale, si possano prendere tutta una serie di provvedimenti. Io credo che se dovessi organizzare qualcosa rispetto ad Dax, eccetera, la metterei su questo piano. Certo. Credo che il Recovery Fund, da questo punto di vista, l'abbandono temporaneo delle politiche di austerity a livello europeo, perché questa situazione di blocco dell'attività economica non fa piacere neanche al capitale, anche se il capitale ne ha subito immediatamente approfittato, uno per fare i conti al proprio interno, due per sfruttare la situazione attraverso lo sviluppo di una nuova modalità di organizzazione, che è esattamente quella modalità di organizzazione delle piattaforme che abbiamo visto emergere nella discussione prima sull'ambito finanziario, ma che sono già ben salde nel campo della struttura produttiva manifatturiera, dei commerci, dei servizi e nel controllo delle comunicazioni. Adesso si sta facendo il salto perché le piattaforme diventino anche gestione del welfare, perché il welfare è il settore oggi diventato molto produttivo ed è quello più ricco di possibilità di redditività e di profittabilità. E tutto il piano del recovery fund, a mio avviso, è funzionale al fatto di mantenere apparentemente una proprietà pubblica di alcuni servizi, ma delegare la gestione e quindi la redditività nella gestione di questi servizi al privato. Quando Draghi parla, mi sembra molto indicativo questo, parla di debito buono e debito cattivo. Che cosa intende? Qual è il debito buono? È quel debito che produce redditività per i privati. Il debito cattivo è quello che dà sostegno alle persone, magari a fondo perduto, le consente a loro di migliorare le loro condizioni di vita, magari di avere più possibilità di espressione, ma che immediatamente non ha un ritorno dal punto di vista dell'efficientismo in una logica privatistica. E la logica si chiama del new public management, questo, che era il nuovo modello di gestione delle public utilities e dei servizi pubblici. È quello che sta dietro il concetto di welfare, per intenderci, che tu hai diritto a un sussidio al reddito, un sussidio di disoccupazione solo se dimostri di essere degno di tale. Membro attivo della società, che si membro spende. Attivo della società, eccetera, eccetera. Questo è il contesto abbastanza tragico in cui viviamo, e credo che su questo sia necessario innanzitutto rendersene conto e non pensare che in seguito al Covid-19 nulla sarà come prima. Non è che nulla sarà come prima, cioè, le regole di gerarchizzazione economica si sono acuite, certo. Su questo sono stati messi dei palliativi necessari. L'Europa ha creato il SURE, che è questo sistema di finanziamento delle casse integrazioni a livello europeo, per varie ragioni, non ultimo il fatto che finanzia essenzialmente la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti stabili, quindi la maggior parte dei lavoratori precari o quelli informali non sono completamente escluse, ma anche perché la Francia e la Germania sono quelli che hanno la quota di lavoratori stabili più elevata a livello europeo e devono essere protetti ovviamente, nella logica anche della redditività di questi investimenti. Certo. Mentre si discute, ogni tanto si lancia l'idea magari di fare una battaglia per l'estensione di forme di sostegno al reddito, di reddito di base il più possibile incondizionato, e non fare una serie di interventi ad hoc come sono state fatte negli ultimi anni e non ultimo con tutti i vari decreti cura, decreti di rancio, ristori, eccetera. Ormai siamo all'interno di una pletora di provvedimenti che si cannibalizzano uno con l'altro, sì. In cui c'è il caos più totale. C'è il reddito di cittadinanza, anche il reddito di emergenza. Perché? Cosa serve? Che effetto ha? Mentre invece una politica di uniformità e di convergenza verso un unico ammortizzatore sociale, che è un reddito di base il più possibile incondizionato e sganciato dalle politiche del lavoro, è ovviamente un'alternativa possibile su cui credo che i movimenti dovrebbero impegnarsi seriamente. Perché è la condizione per consentire il mantenimento di condizioni di lavoro e soprattutto di un lavoro decente. Perché ti permette di dire alle offerte di lavoro troppo basse, ricevibili, di essere certo. Ricevute. Certo. Cioè la ricattabilità ovviamente aumenta. Ma giusto oggi, sì, guarda, il mio dipartimento a Pavia ha fatto un bando per un corso di 35 ore di lezione pagato 600 euro. Guarda che è già buono, perché il 30% dei corsi universitari sono fatti a titolo gratuito, quindi per dire lo scambolamento verso il basso che qui c'è. Meraviglioso. Ma a proposito di questo, io ho perso in realtà il punto. Il governo Draghi ha già promesso che lo toglierà perché è un provvedimento inutile, il reddito minimo, quella famosa. No, non credo questo. Non credo, perché il reddito così come è stato strutturato e è stato votato anche con i vincoli posti dalla Lega, è un reddito totalmente funzionale, un sistema di welfare, perché è fortemente condizionato e a termine innanzitutto, perché dura 18 mesi. Dura 2 anni, per cui adesso parte l'ultimo anno, per cui bisogna vedere cosa succederà. Io non credo personalmente che ci sia interesse a togliere la cittadinanza come chiede la Confindustria, eccetera, perché sarebbe un boomerang da questo punto di vista. Anche perché, dai primi dati, ormai un anno e mezzo dall'attuazione del reddito di cittadinanza, bisogna dire che qualcosina questo reddito è servito. Certo. Nel senso, non ha abolito la povertà, come diceva Di Maio, neanche la povertà assoluta, però ha dato sollievo a 2,5 milioni di persone, che non sono proprio bruscolini. Certo, certo. Va bene, professore, noi la ringraziamo, anzi io la ringrazio perché al momento sono da solo in studio, e a questo punto una piccola minaccia, se ha voglia, se potrà in futuro, la richiameremo per parlare di altre cose su questo tenore. Più che volentieri. Va bene, allora succederà di sicuro. Grazie mille, grazie a professor Fumagalli, buona serata, noi invece ci ascoltiamo una fantastica canzoncina. Quale? A tra poco. Giustamente ho detto che è la puntata che parla appunto di business e capitalismo. Abbiamo dovrebbe essere un pezzo electro swing dei Power of Stellar. Brisky Business. Va bene, buona serata, buona a tutti. Serata. A tutti. Allora, vediamo come si fa, perché nel frattempo mi sono un po' arrugginito. Dovete sapere che è da un pochino che non frequento la radio. Qui c'è il pulsante giusto. Si dissolve la traccia, si alza il volume e buon ascolto a tutti e tutte. Allora, siamo tornati in diretta. Spengo l'astronave qui. Abbasso la musica. Eccoci qua. Siamo in presenza del nostro turbo intellettuale preferito che ci è venuto a trovare, Alex Foti. Grazie amici e amiche di ZAM. Allora, speriamo che qualcuno agisca sulla chat per farmi capire se si sente bene, perché ci siamo dovuti giustamente mettere la mascherina. Prima ero da solo qua in studio, in radio, è arrivato lui che è persona responsabile e mi ha giustamente chiesto di mettermi la mascherina. Allora, il tema della puntata lo sa già, e ha una fucilata pronta, carica da stamattina alle 6:30 quando abbiamo iniziato a scriverci, esatto, per parlare di stasera. Noi siamo lavoratori, ci svegliamo presto. E accendiamo il cervello subito. Va bene Alex, il governo Draghi, anticapitalismo, antifascismo, vai, hai 35 minuti, se vuoi. Troppo, no, non voglio abusare della vostra pazienza. L'antifascismo oggi significa opporre il governo Draghi, perché è dentro Giorgetti, il governo Giorgetti, che è il suo braccio destro, ed è l'autostrada spianata per la riconquista di Salvini e della Lega del Potere. Certo, magari più spostata verso Zaia, ma il ritorno del fascismo nelle sue forme nazi-populiste contemporanee. Quindi Draghi, che è di per sé un alfiere del capitalismo familiare italiano, delle elite italiane che riasseriscono il loro potere contro Conte, cioè Conte, per tutto quello che si vuole dire, comunque voleva fare il salario minimo orario, ha fatto i ristori, ha fatto sussidi a pioggia, ma sostanzialmente i centri medio-bassi li ha tutelati durante la pandemia, ha bloccato i licenziamenti, eccetera. Persino questo moderatissimo riformismo è inviso al capitalismo familiare delle grandi famiglie, gli Elkan, i Benetton, eccetera, che tanto hanno spolpato la cosa pubblica in questi 30-40 anni di privatizzazioni e di austerity. Il discorso però, da un punto di vista macroeconomico, si è detto che Draghi è la tecnocrazia che ritorna al potere, è vero in parte, ma di sicuro ha un segno di differenza dal governo Monti, perché Draghi è stato messo lì per spendere i soldi che Conte gli ha trovato in Europa. Insomma, questo è il discorso. Quindi non sarà un governo all'insegna dell'austerità, sarà anche un governo che dal punto di vista sociale starà attento a non far esplodere la bomba. Quindi vedete che c'è Landini nella barca, nella mucchiata grande, perché ci sarà comunque una proroga del blocco dei licenziamenti fino all'estate. Questo è stato il prezzo per avere dentro la CGIL, e bisogna anche intendere così il Ministero del Lavoro Orlando. Però il discorso chiaro è che questo è un governo contro la classe precaria, Cristo, cioè contro la generazione Z in DAD, disoccupata dalla pandemia, e i millennials, che sono stati in tutti i paesi europei i più colpiti sia in termini di reddito che di sicurezza del posto del lavoro. Di nuovo i boomer, con questo cazzo di governo, riasseriscono il loro potere, quelli che sono sopravvissuti. Ecco perché il giovane precariato italiano deve auto-organizzarsi e mobilitarsi per essere l'opposizione sociale che manca a questo governo. Gli manca un'opposizione parlamentare, che ci sia un'opposizione sociale. Ora, il movimento è stato attivo durante la pandemia con le brigate, il mutuo soccorso, la mobilitazione contro la mala sanità della regione, che ha fatto uno sterminato numero di morti intorno a noi, con le varianti che ci sono sotto il culo, dalla Barona a Quartogiaro, ok? Però non sono state rinnovate le forme, l'arsenale retorico, e soprattutto non è stata fatta una riflessione adeguata sulle forme contemporanee dell'organizzazione politica. Per quanto mi riguarda, io, Alex Foti, sono un ideologo, lo dico, l'ideologo della classe precaria, che intende contribuire a distillare un'ideologia ecofem, socialista e mutuale, che, come dire, sussuma tutte le tendenze dell'anticapitalismo contemporaneo, dal climattivismo al femminismo, dalla mobilitazione dei lavoratori di Amazon fino a quelli di Deliveroo. Ma la questione e la riflessione che dobbiamo fare è che l'organizzazione online, la democrazia diretta elettronica con organizzazioni formali, è il modo di conquistare partecipazione, consenso di scalare il potere, di rovesciare il potere. Se ce la fate, guardate bene, cioè i 5 Stelle sono dei coglioni, ma perché hanno avuto questo grande successo? Perché hanno dato una forma simulata di partecipazione alle persone, qualunque esse fossero. Ma infatti, se posso farti una domanda, grazie nel frattempo per questo intervento, veramente energizzante, molto interessante. Infatti la cosa è che quando tu hai iniziato a dire di organizzazione democratica, diretta, elettronica e anche formale, mi è venuto ovviamente subito in mente 5 Stelle. Ora mi domando, in quanta maniera, come dire, non so nemmeno parlare italiano, quanto lo strumento poi andrebbe a modificare ciò che è? Cioè, è possibile fare qualcosa di più intelligente che il Movimento 5 Stelle o si crea un'altra roba molto molto simile? Dunque, allora, le forme di democrazia online sono diffuse su una varietà di piattaforme, dal Partito Pirata, che fu la prima, Liquid Feedback, fino al municipalismo catalano, madrileno, Decidim, ed altre piattaforme di partecipazione civica, cioè voglio dire restando solo alla logistica, oltre ovviamente alla piattaforma Rousseau. Il discorso però è da dire che sia nel caso di 5 Stelle e in gran parte anche nel caso di Podemos, che si avvale di strumenti simili, si è trattato di forme plebiscitarie di gestione del consenso interno. Quasi mai la votazione della base ha sconfessato la leadership. Al massimo, appunto, nelle decisioni controverse si misura un 40% di dissensi, vedi la partecipazione al governo Draghi. Cioè, quello come è usata la democrazia online, a parte la mobilitazione, che è appunto l'aspetto che dicevo prima, è organizzata in una maniera di ratificare decisioni prese prima, quindi non è una forma di democrazia ma di plebiscitarismo, come dice il mio amico sociologo nei partiti digitali, Paolo Gerbaudo. Mm-hmm. Diversamente però sarebbe utilizzare questo strumento come organizzazione democratico-rivoluzionaria che effettivamente delibera, discute offline e online e vota online i propri funzionari, se vuoi dirla così, vabbè, per usare una maniera denghista di dirla, cioè nel senso di dire i propri rappresentanti, decide chi sono i propri portavoci, le proprie rappresentanti, i propri rappresentanti, i propri candidati, la propria tesoriera, le cariche associative, in un'organizzazione formale che ti dà la sua tessera, che ti dà la sua brava tessera, che tu paghi 5-10 euro, una quota associativa che dà capitale fondi all'associazione per poter essere, e si attiva nei territori metropolitani intorno a un'idea condivisa di anticapitalismo. Secondo me, cioè, viene finalmente superato il modello di leadership un po' usurato, assembleare, che i movimenti italiani hanno avuto e che secondo me ci impedisce di crescere. Ora, voglio dire, se io sarò considerato un vecchio rincoglionito e le mie posizioni in questa assemblea rivoluzionaria metropolitana online non saranno reputate revisioniste, eccetera, pazienza, andrò in minoranza e combatterò la mia battaglia aspettando momenti migliori. Aspettando magari 76 anni come Draghi per essere chiamato Presidente del Consiglio. Ma no, esatto, cioè soprattutto rimuovere le persone che si sono dimostrate incapaci o vendute. Questo è importante, ragazzi. Cioè, abbastanza. Che ci sia una validazione continua del consenso, e quindi che sia una delega revocabile nello spirito comunardo, okay? Per ricordare esempi rivoluzionari. Cioè, sull'esempio del Kurdistan, il fatto che una persona abbia un certo tipo di... a parte il fatto che magari a questo punto si può anche parlare di cariche temporanee, certo, proprio farne in Kurdistan proprio per un anno, due anni, non di più. Ottimo. E poi il fatto che comunque sia la comunità può scegliere di revocarti ciò che ti ha dato, perché comunque di fatto vige la norma che siamo tutti quanti attivi nella gestione della nostra comunità. Per cui non è che tolto tu non c'è nessun altro che ha le tue stesse caratteristiche. Ma cercando di fare un passo indietro sul tema della puntata, certo, cioè quanto l'anticapitalismo può essere antifascismo, ma rimanendo sull'attualità, Recovery Fund, tu dicevi giustamente prima, Draghi spenderà dei soldi, non come Conte che li ha dovuti o togliere o ridistribuire. Non come Monti. Ah, non come Monti, hai ragione, scusami, ancora meglio, effettivamente. Che bei ricordi, quei tagli alla spesa. Ma a questo punto, cioè, quindi voglio chiederti, che magari sei più informato di me, perché io purtroppo ormai la cronaca non riesco più a seguirla. Cioè, Draghi vuole spendere questi soldi e come? E soprattutto a questo punto la domanda è, dov'è che non li metterà e dov'è che tutto questo alla fine della fiera permetterà a qualcuno di guadagnare, sempre i soliti e le solite, e invece sempre i soliti e solite di perderci? Dunque, sarà un approccio keynesiano-schumpeteriano, nel senso di dire che la spesa sociale sarà riorganizzata e probabilmente si arriverà a un sussidio unico, condizionale però, non incondizionato come potrebbe essere un reddito di base. E l'aspetto schumpeteriano è che si vuole rendere, svincolare, come dice la loro retorica, la protezione del lavoratore dalla protezione del posto di lavoro. Attenzione, cioè, capite la differenza? Cioè, nel senso di dire, i soldi si danno ai lavoratori, li licenzi, gli dai i soldi per riformarsi, diventare, passare dalla ristorazione alla meccatronica o quant'altro che la nuova economia post-pandemica richiederà. Questa è un po' la loro idea. I fondi di Next Generation EU, cioè The Recovery Fund, devono essere impiegati in parte in sanità, in parte in società, in parte in transizione digitale e una buona parte per il Green Deal. Diciamo, questi sono i quattro grossi capitoli. Di sicuro Andrea Fumagalli è più dovizioso di particolari. Si legge anche in questa chiave la creazione del Ministero della Transizione Ambientale, perché è un capitolo di spesa. Quindi non è un'idea originale apposta per fare in modo di avere l'ecologia nel governo. Insomma, qui c'è stato un gioco delle parti fra Grillo, Draghi. Cioè, di sicuro il perdente in questa partita è evidentemente il PD, soliti coglioni, cornuti e mazziati. Cioè, il 5 Stelle, vista la malaparata, ha cercato di limitare i danni, portando a casa appunto un trofeo simbolico, come dire, però che però è valso, non so, se non ci fosse stata quella roba di Grillo, cioè Draghi sarebbe andato proprio sulla corsia preferenziale senza nessun vincolo di nessun tipo, almeno gli ha messo Rousseau fra i coglioni, cioè per due giorni, infatti i quotidiani borghesi strillavano CAS 5 Stelle si mette sul percorso di Draghi e quant'altro. Hanno fatto pesare di essere ancora il primo partito. Si sbloccò, vabbè, non so, magari sono ormai è passato tutto, però può essere interessante dirlo, con il WWF e Greenpeace che hanno incontrato Draghi e hanno detto, ci ha detto che farà il ministero della, quindi è tutta colpa di Greenpeace alla fine, di nuovo. No, WWF. L'emissario è stato il WWF. Madonna santa, c'era anche Greenpeace e Lega Ambiente, maledetti panda. il principe Carlo del WWF. Vabbè. Comunque, in pratica era il messaggio a Nuora perché suocera in tenda, ok? Quello è stata la cosa che ha sbloccato il governo e niente, si è arrivata a questo. Però è chiaro che il peso della Lega è crescente ogni giorno che passa. Ma è appunto anche questa cosa qua, è vera, non è vera? Cioè, io non riesco a sentirlo, a percepirlo a partire dai giornali, perché comunque la presenza della Lega quando era al governo era veramente prominente su tutto. Adesso invece la guerra interna è già iniziata, dai migranti a Ricciardi a far fuori il commissario, dai, dimmi adesso, Arcuri, forse Arcuri, certo, torneranno a capare di centri sociali prima o poi, quindi diventeremo di nuovo famosi, perché la Lega tra le sue arsenali base ha quelli dei centri sociali, quelli che contestano Salvini. Va bene, cioè, esatto essendo il nemico scelto, esatto, saremo famosi, acerrimo completamente. Bene. Ma no, infatti, su questo luogo, se posso dire l'ultima cosa e poi la saluto tutti, è cazzo, siamo andati per Blockupy contro Draghi a Francoforte. Cazzo, quanto ci vuole per andare a Roma contro di lui? E facciamo la stagita. Allora, tanto hai visto che hanno fatto le foto del corteo di Valerio Verbano? Un fiume di gente, bellissimo, tra l'altro, meraviglioso. Ragazzi, Black Lives Matter, in mascherina, Black Lives Matter ha cambiato la politica americana in pandemia. E lì, cazzo, cioè, ci sono stati giorni con migliaia di morti. Cos'è che noi non possiamo farlo? Del resto l'abbiamo già fatto, Black Lives Matter in centrale, abbiamo fatto l'assedio a Pala Lombardia, all'Asso Lombarda. Cioè, questi sono falsi ostacoli. È chiaro che però se noi vogliamo essere un esempio per il resto della società, mascherine sempre, capito? In piazza, essere, cioè l'attore, l'attore di un discorso antinegazionista oggi è fondamentale, ok? Perché l'antinegazionismo è l'antifascismo, è un'altra declinazione. Non ci avevamo pensato, non ci avevamo pensato. A questo punto, come abbiamo fatto prima con Andrea, ti minacciamo che torneremo a chiamarti, intervistarti, no, farti venire qua. Faremo una nona puntata postuma sul negazionismo e come essere antinegazionisti, ormai è necessario per essere antifascisti. Basta, cioè, se è venuto, ha fatto poche fiamme, una tempesta e se ne va. Fantastico, meraviglioso. Ciao, meraviglioso, meraviglioso. Guarda, ne mettiamo un'altra e poi ti saluto. Mettiamo la canzone di Busta Rhymes. Sono tutte canzoni che hanno un business nel titolo. Mi sembrava di seguire il titolo perfetto della traccia. Il business ritorna al potere in Italia, quello è poco ma sicuro. Va bene, a tra pochissimo, buon ascolto. 45 shelves of smoke, I'm no joke. For that big money, damn, I clear my throat. You know I'm going for broke. I'm the last Mohican, tough is how I'm speaking. Move the wrong way, get your face leaking. I run with a few Jamaicans and Puerto Ricans. The game is mine and this is how I'm preaching. I'm blacking on the industry, killing the region. I got my guns out so you know it's duck season. It ain't nothing, kid, I stop you from breathing. Trapped in the corner, you ain't leaving. Rampage, I'm back to the world, just getting even. What? Robbed on the control, letting y'all niggas know how soon y'all gonna be. All y'all competitive motherfuckers, so-called competitive motherfuckers, that's soon right. Y'all gonna be. We're in my nigga Rampage, the last Boy Scout. Hit y'all motherfuckers on the head, and y'all gonna be. All y'all competitive motherfuckers, y'all motherfuckers is gonna realize soon y'all gonna be. I'm so serious, yes, I'm so serious. Y'all made me mad and Rampage, I'm furious. Y'all niggas joke real delirious. I come through, I got all y'all niggas curious. I'm ill like them bacterias. I'm a disease that's in all your areas. I don't like you and you don't like me. Watch your tongue, you can never spike me. I got my fitted on New York Yankee. Pill 100,000 when I'm up in AC. I ain't gotta chase money, money chase me. If you're hitting on a kid, you gotta face me. Robbed on the control, letting y'all niggas know how soon y'all gonna be. All y'all competitive motherfuckers, so-called competitive motherfuckers, that's soon right. Y'all gonna be. We're in my nigga Rampage, the last Boy Scout. Hit y'all motherfuckers on the head, y'all gonna be. All y'all competitive motherfuckers, y'all motherfuckers is gonna realize soon y'all gonna be. Y'all niggas is going out of business. Messed up in the game, like who did this? Check it, me, I got a 50-50 split. Short shot, deep freeze, that's that shit. I got the car, plus I got the kit. Throw in the towel, y'all might as well quit. If you playing freeze tag, I guess I'm it. If you're going out of business, I'm hard to get. Yo, I got that street clout like Tricky Trick. When you see my jewels on, yo, I'm making you sick. Rampage lieutenant, hottest draft pick. I really don't care who you run and go and get. Robbed on the control, letting y'all niggas know how soon y'all gonna be. All y'all competitive motherfuckers, so-called competitive motherfuckers, that's soon right. Y'all gonna be. We're in my nigga Rampage, the last Boy Scout. Hit y'all motherfuckers on the head, and y'all gonna be. All y'all competitive motherfuckers, y'all motherfuckers is gonna realize soon y'all gonna be. Worldwide and universally, we had the prize. Business and the pleasures in life. Self-supported, fuck the industry. Business takes more than a dollar and a dream. Don't mix business with pleasure. You know what that means? Shit. Ain't a rapper with a deal as please. Some don't see where they run, so they run to the sea like lemmings. Drown in despair cause they depending. All dressed in designer underwear, but most rhymers are unaware. Lyrically impaired and not prepared to battle me. Been doing this since Karate Kid and Police Academy. A 23 years young man with no suntan. Always was a KRS-One fan with a belt on can. Criminal slamming all nighters since 86. In seventh grade, hung with crazy kids. Never lived in the ghetto, but fell in love with ghetto music. That blueprint of hip hop, who protects us from you shit? Nowadays, rap sucks. I listen to Chucky Starr, knowing one day my time will come. Wishing on my lucky star that they stop promoting the wrong thing. Word to Don King, that doesn't mean a damn thing. You still top ranking. I know. No promo, how come your shit is so much fresher? Cause I don't let the business suffocate the pleasure. I don't feel the pressure, I just rock on. That's why a lot of people don't seem to like me in Stockholm. But that's cool, I go for Japan and Germany, Australia. The whole world is what's concerning me. Not your petty bull about who did or said what first. Y'all keep Stockholm, I'ma conquer the universe. Worldwide and universally, we had to rise. Business and the pleasures in life. Self-supported, fuck the industry. Business takes more than a dollar and a dream. Hey yo, we laugh on our way to the bank. That's how we combine business with pleasure. Go hand in hand like beats and rhymes. Thieves and crimes, me and mine. Some truth, we go gold and we don't even have to try. For businessmen, the troop team, we enterprise. Too strong to be slept on. Yo, we be our own managers, our own promoters. We take no orders, cause disorder in society by pushing tapes on mail order to make ways broader. We cross the border, rock a tape recorder right now. So place you never thought of, think I play a hater. Matter of fact, I'm MVP. Vestoros entrepreneurs built DBSG from the grassroots. Loop troop, most wanted in the DJ booth. A word of advice for the up and coming young youth. The recipe is produce this, press this, get fame. If you get this, get them back on wax. Never pay tax, never pay backs. Don't expect too much cash, but if you make money fast, make the money last. Make the honey slap, make sure your crew stays tight. Remember, business is pleasure if it's done right. Never lose sight of your real friends, cause when career ends, I think we'd be glad we stuck to them. Guess that makes sense. Be intense on stage and be provocative always. For further information, peep the homepage for tour dates. Worldwide and universally, we had to rise. Business and the pleasures in life. Self-supportive to really keep it real. Business takes more than a dollar and a dream. Worldwide and universally, we had to rise. Business and pleasure go hand in hand like beats and rhymes. Thieves and crimes, me and mines. Business and the pleasures in life. And yo, we laugh on the way to the bank. That's how we combine business with pleasure. Go hand in hand like beats and rhymes. Thieves and crimes, me and mines. Loop truth, we go gold and we don't even have to try. We don't even have to try. We go for gold. Business and pleasure. Business is pleasure. What surprised you the most? I guess what hit me the most is the condition of the factory that the workers were in. The factory was surrounded by fans and barbed wire on top and on the bottom, and they have a chain link fence around the whole factory and dormitory compound. The gate has a guard shack where the guard sit and control the worker movement in and out of the factory. The factory are made of tin panels with tin roof. It's really hot. The temperature over there is regularly 90 degrees, and inside the factory or the dormitory, it reaches way over 100 degrees. Yeah, it's a contemporary form of slavery. They call it slave labor, but they don't prosecute them cause it's how they make paper. When you rocking that fly shit that's made in China by an 8-year-old child trying to feed his mama, he exposed to contamination and disease, and only 55% of them will get degrees. And the women have to try to placate the boss because it's sex discrimination in the labor force. The slave master only let them speak in sign language, and they suffering from lung disease and eye damage. 14-hour shifts, 7 days a week. Two shitty meals a day, very little sleep. Human life only worth 3 cents an hour. All human rights lost, no sense of power. What did 400 years in the grave pass us? Only the improved cleverness of slave masters. Is life worth living if you're living in hell? When the mind is confined to a prison or cell, and the lies they devise in a system that fell. But I expect the system to fail. Is life worth living if you're living in hell? When the mind is confined to a prison or cell, and the lies they devise in a system that fell. But I expect the system to fail. Many Chinese workers are forced to sign secret agreements known as shadow contracts before they leave China, severely and in some ways illegally restricting their activities while on American soil. Workers are forbidden to participate in any religious or political activity, or to ask for a salary increase, or even to fall in love or get married. It's 1.6 million people locked in jail. They the new slave labor force trapped in hell. Damn. They generate over $1 billion worth of power, and only getting paid 20 cents an hour. They make clothes for McDonald's and for Applebee's, and working 40-hour shifts in prison factories. And while we sit around debating who the whack MCs, they have to work when arthritic pain attacks the knees. Slavery's not illegal, that's a fucking lie. It's illegal unless it's for conviction of a crime. The main objective is to get you in your fucking prime and keep the prison full and not give you a fucking dime. But they the real criminal keeping you confined for a petty crime, but they give you 2 to 9. And ain't nobody there to protect you except a bunch of incompetent human rights inspectors. Is life worth living if you living in hell when the mind is confined to a prisoner cell? Ain't the lies they devise in the system that fell, but I expect the system to fail. Is life worth living if you living in hell when the mind is confined to a prisoner cell? Ain't the lies they devise in the system that fell, but I expect the system to fail. The sweatshop situation kind of pervasive and kind of take advantage on the people that are poor and at an economic disadvantage. This Chinese woman made t-shirts and pants at the factory until she became pregnant. Du Xiaomei says she refused to have the abortion and has now been barred from entering the factory. Allowing to bring that onto U.S. soil is a very deep concern. We've now documented the fact that management coerces female workers to become pregnant into having abortions. But human rights workers say it's common practice. Inside that factory, Chinese law applies. And Chinese law is supreme, even though it's... Allora, torniamo in trasmissione. È una situazione assolutamente mega lounge. C'è qui Alex ancora un attimino con noi, che giustamente sta rilassando. Esatto, ha fatto cadere una birra, ma fa bene, poco male, poco male. E in realtà, anche se stai fumando, io sono lontano. Solitamente diciamo che questo studio radiofonico è veramente immenso e sterminato, perché non c'è problema. Si stava parlando dei problemi del precariato e come mai il precariato non riesce a emergere come classe lavoratrice rivoluzionaria. Secondo me, quindi, proprio buttandosi addirittura nella politica più totale, Alex non è per la posizione tipicamente zapatista per cui non sono più i lavoratori i soggetti della rivoluzione, i soggetti rivoluzionari. Perché mi pare di capire che sei ancora per una versione più... No, sono per la classe precaria, perché la classe precaria è giovane, donna, migrante. Aspetta un attimo, facciamo così, guarda Alex. No, sono per la classe precaria, perché la classe precaria è femminile, giovanile, migrante. Cioè, il nuovo soggetto rivoluzionario che si è visto in questi anni, da Winnie the Pooh fino a Standing Rock, Black Lives Matter in azione. Quelli che hanno fatto andare avanti la storia. Ora, c'è una grossa lotta in corso a Bessemer, Alabama, per la sindacalizzazione del più grande magazzino di Amazon del sud degli Stati Uniti. Le votazioni finiranno per via posta a fine marzo. Ci sono stati enormi ostacoli, intimidazioni posti in essere da Jeff Bezos, fra cui per esempio che per non far votare la gente a favore del sindacato gli offrono un mega pacchetto di licenziamento paracadute d'oro per tutti quanti i lavoratori che non votano nel sindacato. Pazzesco. Comunque, se si vinceranno le elezioni, sarà una grande notizia per tutti i lavoratori e le lavoratrici della logistica del mondo. Non voglio neanche immaginare che forma contrattuale abbiano i lavoratori di Amazon in America. Se è una roba tipo a ore, no? In America hanno dei dispositivi che misurano il polso e... Madonna. Di passi che fai, cioè veramente la misurazione taylorista dei gesti dei picker di Amazon, cioè veramente è tempi moderni di Chaplin praticamente. Cioè, dobbiamo anche capire che il precariato per metà è digitale, per metà è vecchia fatica. D'altro canto, cioè, io penso che noi che siamo al cognitariato abbiamo una responsabilità di produzione ideale per esprimere finalmente il nostro potere infrastrutturale, il nostro potere solidale, per, opporci in maniera frontale e costruire le nostre proprie istituzioni, un sindacato online, un'organizzazione online di autodifesa. Questo è possibile. Dobbiamo pensare che tutte le istituzioni della sinistra storica sono inutilizzabili per i nostri fini. Dobbiamo costruire la nostra. Se non lo facciamo adesso, nel tempo post pandemico, vincerà di nuovo il maledetto capitalismo familiare italiano. Maledetti. Va bene, io a questo punto direi che possiamo finire qui la puntata, perché le abbiamo dette tutte giuste, secondo me, è stato fantastico. Abbiamo cercato di mettere tutta la puntata delle battute musiche che avessero business nel titolo, questa è stata la mia idea fenomenale per dare una colonna sonora alla puntata. Adesso vediamo se riesco a trovare l'ultima canzone che volevo prendere, ma no, e va bene, fa niente, mettiamo i Mosque of Death Brigade, che comunque dicono sempre molto bene, e basta. Vi ringraziamo tutti quanti e tutte quante per averci ascoltato in questo breve trip dentro l'anticapitalismo e la rivoluzione che verrà insieme ai nostri fantastici ospiti. Anzi, prima di far partire i Mosque of Death Brigade, faccio partire a tutti uno dopo l'altro i contributi che ha mandato il nostro compagno, che rimarrà un pochino, come si dice, nell'anonimato, e se mi riesce, e via, sentitevi i contributi e poi mandiamo i Mosque of Death Brigade. Scusami Alex, c'è un piccolo problema tecnico per cui devo far ripartire un attimo la situazione. Se ci chiedi quanta gente ci ascolta, 3-4 miliardi di persone, no, non è vero, tendenzialmente ci ascoltano una decina di persone. I programmi più forti come Le Ribelli, che sono un programma serio importante fatto dalle nostre compagne, guadagna anche una sessantina di ascolti, mentre vengono ascoltati molti podcast. I podcast fanno molto più successo di quello che si possa pensare. Allora riproviamo a vedere se si sentono i contributi audio del nostro compagno. Allora, si sentono. Il tema del dibattito, antifascismo e anticapitalismo, un tema complicato. Qualcuno potrebbe dire di sì e qualcuno potrebbe dire di no, perché qualcuno potrebbe dire anche che antifascismo si è esplicato anche in modi diversi e in modalità diverse da quelle dell'anticapitalismo. Ma è anche vero che, come insegnava Marx, la struttura economica è quella che poi molto spesso condiziona la vita degli uomini e anche le loro ideologie. Io direi che il tema fondante da cui non ci stiamo spostando, insomma, in questi anni, è su quello che possono essere definiti nuovi fascismi, è l'uomo bianco impoverito, impaurito ed incazzato. Ricordo che questa definizione mi era capitato di proporla alla presentazione di un libro di Guido Caldiron qualche anno fa, Lambretta, un libro sulla estrema destra americana, e in fondo mi sembra che il tema sia fondamentalmente ancora quello, nel senso che la globalizzazione neoliberista ha messo in potente crisi l'egemonia dell'uomo bianco, che è un'egemonia che si esplica da centinaia di anni. E in questo momento diciamo che questa figura che ha un po' guidato la storia anche in modi terribili e terrificanti, basti pensare al colonialismo, negli ultimi centinaia di anni si sente messa in discussione. Questo è uno dei punti da cui si può partire per fare una riflessione, soprattutto ovviamente sull'Occidente, no? Sugli Stati Uniti e l'Europa. Altro tema interessante era quello di cui giusto io e te parlavamo qualche giorno fa, che vedere nei fascismi, anche quelli nuovi, come semplicemente il cane da guardia, il braccio armato del capitale, a mio parere, dal mio punto di vista, è assolutamente svilente, vuol dire non capire e non approfondire il tema, nel senso che i fascismi hanno sempre una loro peculiarità, e io condivido molto l'analisi gramsciana, nel senso che ritengo sempre siano uno strumento di mobilitazione dei ceti medi impoveriti o impauriti, della piccola borghesia, insomma, siamo tutti un po' in qualche modo piccola borghesia. Diciamo che se negli anni 20, uscita dalla guerra abbastanza umiliata in alcuni paesi, la piccola borghesia si sentiva minacciata nei suoi piccoli privilegi dal bolscevismo, adesso si sente minacciata dalla globalizzazione e dalle ondate migratorie, ma in fondo diciamo che il percepito non è molto cambiato. E quindi i fascismi in qualche modo danno un quadro ideologico che permette al ceto medio frustrato di avere la legittimazione di infierire contro chi sta sotto e minaccia i piccoli privilegi. E quella retorica del popolo, della nazione, che in qualche modo li diversifica dalla grande borghesia, la grande borghesia dinamica e che non viene in qualche modo, non vede scalfiti i suoi privilegi dalla globalizzazione, dai flussi migratori. Governo Draghi è una voragine immensa, cioè si potrebbe stare a parlare anche 6-7 ore, se vuoi posso parlarne io da solo 6-7 ore. Io dico sempre che il governo Draghi tiene insieme tutto quello contro cui ci siamo battuti negli ultimi 20 anni, quindi è proprio la trasposizione plastica delle nostre sconfitte, tiene dentro la Lega, tiene dentro Berlusconi, i voti del governo Berlusconi, matrice 2008. Prima dell'onda e poi tecnici, abbiamo già sperimentato Monti. Niente, si possono dire diverse cose. La prima è che il governo Conte cade, come quasi sempre in Italia, dopo una congiura di palazzo. Anche Mussolini e Giulio Cesare sono caduti per congiure di palazzo. Quasi mai una rivolta popolare a buttare giù il potere costituito. Quindi un intrigo di palazzo, ovviamente con dei referenti politico-economici molto molto potenti, per mettere l'uomo giusto al posto giusto, nel senso l'ex presidente della BCE. Nel momento in cui arrivano 209 miliardi da spartirsi, è la figura di garanzia per questa spartizione. È evidente che non sarà come il governo Monti, perché lì i soldi andavano tolti dalle tasche degli italiani e qua ci sono dei soldi che arrivano. È evidente che per quanto riguarda i nostri referenti sociali, come si sarebbe detto una volta, quindi precari, studenti, partite IVA e così via, non c'è molto da festeggiare. Si potrà anche ammantare di riferimenti ai giovani, all'istruzione, ma in fondo rimane sempre il governo della tutela dei grandi, grandi interessi, quindi la finanza, Confindustria, il Partito del Cemento e così via. Secondo elemento, purtroppo, è l'assenza dei movimenti in questa fase, nel senso che già ai tempi di Monti ci si diceva che i movimenti non erano all'altezza della situazione, ma c'erano. Mi ricordo di aver preso manganellate lacrimogene ai tempi di Monti, e adesso proprio, anche probabilmente stremati dalla pandemia, movimenti non si vedono all'orizzonte, poi magari esploderanno nei prossimi mesi, e anche le strutture, insomma, non è che si siano espresse o abbiano mosso chissà che, quindi una riflessione su di noi. Poi ci sono altri temi, nel senso che anche qui è evidente che la situazione si è evoluta molto molto rapidamente e ognuno ha giocato le sue carte, nel senso che Renzi da grande pokerista ha fatto la sua partita, Grillo ha ridefinito l'identità dei 5 Stelle come un'identità ambientalista, probabilmente tentando di rompere in un mercato elettorale ancora vergine in Italia, e Salvini, dopo l'errore devastante del Papeete, si è riconvertito all'europeismo fulminato sulla via di Bruxelles, quindi con una capriola a 180 gradi. È evidente che deve rendere conto ai ceti produttivi che lo votano al nord. L'immobilismo è tutto di sinistra, no? Tutto a sinistra. L'incapacità di reinventarsi da un giorno con l'altro, la sinistra istituzionale in questo caso intendo. Va bene, questi erano i contributi del compagno Matteo. A questo punto svegliamo l'arcano e chi ha mandato questi messaggi. A questo punto, dato che non abbiamo più tempo perché tra poco incombe la prossima trasmissione di Radio ZM, coglieremo Matteo al telefono nelle prossime puntate, nelle prossime sere.